Amico Geco, è ora di pranzo. E quindi segui la mosca, prendi la mosca, mangia la mosca, ska, ska. Segui la mosca, prendi la mosca, mangia la mosca, ska, ska. Segui la mosca, prendi la mosca, mangia la mosca, ska, ska. Segui la mosca, prendi la mosca, mangia la mosca, ska, ska. Fermo con un ghiacciolo, muovi gli occhi intorno a te. Quando la pancia brontola, il rimedio sai qual è. Thank you.